9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your eyes again. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma perché? Perché no? Buongiorno cari ascoltatori, buon mercoledì 12 di settembre, oggi è Sant'Anna di Maria, quindi comunque auguri a tutti quelle che si chiamano Maria. Giustamente i colleghi del giornale radio hanno attirato la vostra attenzione sul fatto che l'Europa oggi guarda a Karlsruhe in attesa del verdetto della Corte federale tedesca sui meccanismi salvastati e sulla compatibilità del salvastati con la legge fondamentale, il Grundgesetz tedesco. Oggi, stamane, i giornali tedeschi sono più o meno univoci nel annunciare un ragionevole sì da parte della Corte di Karlsruhe. Questo hanno scontato anche i mercati. Sul Süddeutsche Zeitung Kurt Krister scrive che argomenta le ragioni per le quali tutti in Germania immaginano che non ci si debba aspettare una pronuncia in base alla quale magari mettere mano a un referendum. Se dovesse essere questo il giudizio, invece, le eurocronache si arroventerebbero, per così dire. Vengo anch'io, no tu no, ma perché? Perché no? E ieri novità, una delle tante tesi che questo corvaccio di Oscar Giannino, che alcuni identificano come una delle ragioni della crisi italiana, magari fosse vero, se fosse così mi leverei di mezzo immediatamente, ma comunque ha ascoltato con un certo compiacimento, sia pur tardi e male, da parte del Presidente del Consiglio un tema di quelli che ogni tanto vi sottopone. Ieri incontro sulla produttività, e Monti a un certo punto dice: ragazzi, qui la Spagna, il Portogallo, l'Irlanda, persino la Grecia stanno facendo in termini di produttività un'inversione di marcia, noi andiamo sempre peggio, l'aumento del club, il costo lavoro unità di prodotto continua a essere quasi 3% anno, e dice: bisogna lavorare di più. Vivo sconcerto nei presenti che dicono: ma qui manca il lavoro, come lavorare di più? Tanto lavorando di più, chi il lavoro ce l'ha, la produttività e il prodotto si alzerebbe. Chiaro per tutti che non sono così stupido come sembro. Naturalmente anche Monti ci è arrivato tardi, e naturalmente i sindacati dicono no. Vengo anch'io, è finita, e quindi molto probabilmente la tesi non passerà. Oggi ci occupiamo di una domanda che tenteremo di chiarirvi. La domanda l'ho fatta lanciando la trasmissione, è relativa a che come la pensate, quale sia la vostra opinione intorno a una misura che è stata annunciata la settimana scorsa sui giornali, poi stralciata perché ne era stato annunciato l'esame in Consiglio dei Ministri, ed era una misura relativa all'ulteriore abbassamento della soglia di pagamento oltre la quale obbligare alla tracciabilità elettronica. Ricordo a tutti che dal dicembre dell'anno scorso nel Salva Italia è diventata operativa l'abbassamento di questa soglia a 1.000 euro, quindi oltre 1.000 euro la tracciabilità elettronica è obbligatoria dei pagamenti nel nostro paese. E la scorsa settimana sulla stampa si è iniziato a parlare di un abbassamento molto molto molto consistente della soglia di 1.000 euro, addirittura nei termini di qualche decina di euro, 50 euro, 100 euro, non oltre. Tanto è bastato, a dirvi la verità, perché io iniziassi a ricevere mail e sms fortemente preoccupate, alcune molto critiche, altre inneggianti, perché questo tema cioè la tracciabilità come uno degli strumenti attraverso i quali condurre la lotta all'evasione, è il classico tema che spacca in due gli italiani. Ci sono alcuni che ritengono che la tracciabilità pressoché obbligatoria per quasi ogni pagamento sarebbe una specie di soluzione obbligata, miracolosa per la lotta all'evasione. C'è chi addirittura, come Mina Gabanelli, ha proposto alla conduttrice di Report di mettere una tassa sul contante. Io ho argomentato altrove che, a mio giudizio, è, con tutto rispetto per lei e con tutta la modestia con cui lo posso parlare, è una inaccettabile sciocchezza. Dico sciocchezza perché, a mio giudizio, viola alcune questioni costituzionali, viola anche il fondamento costitutivo della moneta intesa come, come strumento di pagamento fiduciario. Tassare il contante non si può fare. Comunque lo dico perché è il punto paradossale estremo a cui giunge l'abbraccio di questo punto di vista ideologico del tracciamento per soglia di pagamento anche molto basso, perché così si risolverebbe l'evasione. Dall'altra parte c'è un pezzo d'Italia, vedremo quando apriremo i telefoni nella seconda parte della trasmissione come la pensate voi, che pensa invece che queste sono misure che alzano il prezzo di il costo di transazione della gestione dei pagamenti, che mettono gli almeno 850.000 pensionati italiani poveri, che non hanno nemmeno un conto bancario, sono più di 800.000 in Italia quelli di cui si stima che non hanno nemmeno un conto bancario o un conto postale, che li obbligherebbe quindi ad alzare i costi di gestione della propria economia dei pagamenti. Molti lamentano che comunque è una misura probancaria per i costi di commissione sulle carte di pagamento, e quindi è la classica notizia, il classico rumor su cui sono iniziate immediatamente le reazioni. Però prima di sentire come la pensate voi, ci tenevo a spiegarvi una cosa. Questa misura, secondo me, annunciata così sui giornali, è un classico voce del sen fuggito, che però diventa un'altra cosa rispetto alle sue intenzioni, perché non era e non è, a quello che mi risulta, concepito come un ulteriore giro di vite fiscale. Cioè non è Attilio Befera a chiederne l'introduzione, è uno dei pezzi dell'agenda digitale, che tra l'altro venerdì è preannunciata in questo Consiglio dei Ministri e che dovrebbe contenere cose molto utili che invano da anni aspettiamo, tipo l'unificazione di tutte le anagrafi, non solo più ai comuni ma con un'unica anagrafe nazionale presso il Ministero dell'Interno, l'unificazione di tutti i supporti digitali della sanità pubblica. Cioè, capite che sono al volo dei passi in avanti che consentirebbero semplificazione e immediati snellimenti nel rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione attraverso il digitale. Si parla di un unico standard di PEC obbligatoria per tutti i cittadini, non solo più per le imprese, quindi questo implicherebbe portare per esempio la penetrazione dei computer al 100% invece che di poco superiore al 50% nelle famiglie del nostro paese. Tutte misure per estendere la produttività digitale, abbattere i tempi e diminuire i costi. Ecco, in questo ambito, nell'ambito delle misure dell'agenda digitale, c'è anche questo capitolo che riguarda incentivi all'aumento dei pagamenti elettronici nel nostro paese. Pagamenti elettronici nel nostro paese che, tanto per cambiare, sono arretrati rispetto alla media europea. Arretrati pur in un paese in cui da questo 2012 gli smartphone sul totale dei telefonini del nostro paese, sapete che abbiamo una penetrazione di telefonia cellulare la più alta al mondo, e gli smartphone hanno superato come numero quelli dei basic phones, quello dei telefonini normali. Allora, gli smartphone sono dei terminal per fare il remote, per fare il pagamento remoto, per fare il pagamento di prossimità, hanno tutto ciò che serve tecnologicamente per farlo. Eppure nel nostro paese noi siamo molto indietro nei pagamenti elettronici. Pensate che in media abbiamo poco più di 60 transazioni a persona annue di questo tipo, la media europea è di 180-190. Paesi come Francia, Germania e ben al di sopra di 200, e anzi si sta rapidamente avvicinando alle 300 transazioni di pagamento elettroniche annue a persona in media. E soprattutto, andando a vedere la situazione degli altri paesi, fine della mia introduzione, adesso vi presento un ospite che molto meglio di me può approfondire, si vede che incomprensibilmente, malgrado lo sviluppo della telefonia mobile nel nostro paese, non abbiamo assunto nessuno dei grandi modelli che ci sono in Europa, cioè sia in Francia, sia in Gran Bretagna, sia in Spagna, sia in Germania, quasi dovunque, tutte le telcos, i grandi attori della telefonia fissa e cellulare, hanno costituito joint ventures tra loro. In alcuni di questi paesi le hanno costituite con le più importanti banche nazionali, per creare ed estendere appunto piattaforme condivise di pagamento remoto o di prossimità, volte ad agevolare appunto il pagamento elettronico, ad abbatterne i costi per l'utente, a renderlo sicuro, con degli indirizzi regolatori paese per paese che consentono alle società di telecomunicazioni di gestire questi servizi secondo standard ovviamente di trasparenza, stiamo sempre parlando di pagamenti, ma senza obbligarle ad assumere invece gli obblighi come se fossero delle vere e proprie società che, oltre a gestire pagamenti, emettono anche moneta elettronica. In quel caso finiremmo naturalmente a doverle sottoporre alla vigilanza bancaria con degli enormi costi aggiuntivi. Non è giusto chiederlo alle telco. Ecco, però negli altri paesi europei esistono modelli quindi di reti di gestione che hanno innalzato la quota dei pagamenti elettronici, che hanno accresciuto la produttività. Ecco, tanto per restare in uno dei classici esempi di produttività di cui si è parlato ieri a Palazzo Chigi. Allora, nell'ambito di questo capitolo, come si fa, quali misure assumere per accrescere la quota di pagamento elettronico, c'è anche questo pezzo di legno che è andato in immersione la scorsa settimana, della quota attraverso l'abbassamento di quota per renderlo obbligatorio. Però, prima, ripeto, di scatenarvi e dire la vostra, pensate che stiamo parlando di questo e non stiamo parlando per una volta di impiccare i presunti evasori. Ecco, troppo lunga l'introduzione, ma serviva a spiegare perché ci occupiamo con un piglio diverso. Non mi sentirete urlare per il fisco oggi, ecco, ma volevo che altri, meglio di me, vi spiegassero come e perché può servire alzare la quota dei pagamenti e come e perché però bisogna mettere in condizioni milioni di italiani che se la passano molto male, di non vedere questo come un ulteriore attentato al loro già troppo magro portafoglio. Ecco. Per farvelo capire ancora un po' meglio, ho invitato il professor Carlo Maria Medaglia. Buongiorno. Buongiorno. Che come coordinatore di Glocus, della Fondazione Glocus, proprio poche settimane fa, a luglio, ha animato un convegno in cui erano presenti anche il direttore generale dell'ABI, il direttore generale del Ministero delle Attività Produttive, su questo punto. Come si fa, attraverso quali misure riuscire a fare un passo avanti in questo terreno. Tra l'altro, due degli ospiti che dovevano esserci anche qua, ma entrambi non hanno potuto, hanno declinato 5 minuti fa, quindi per questo la sto facendo anche un po' lunga e mi scuso con gli ascoltatori. Allora, Medaglia, innanzitutto, come la pensa di questo abbassamento coattivo, se vi sarà, della soglia del pagamento, e invece che cosa concretamente attendersi perché questo aspetto possa colmare il gap che abbiamo nei confronti degli altri paesi? Allora, intanto buongiorno, se sentite un po' di rumori di fondo è perché sto in giro anch'io e non ho declinato l'invito, ma sono in condizioni diciamo un po' complicate di comunicazione, però grazie agli smartphone che dicevamo prima cercheremo di fare il possibile. Allora, l'introduzione è stata chiarissima e puntualissima, quindi penso che non ho molto da aggiungere. Allora, quello che secondo me è un dato fondamentale e quindi che aspettiamo secondo me con grande interesse quanto uscirà dal decreto digitale, appunto, che lei citava questo venerdì, e che non l'agenda digitale italiana ma l'agenda digitale europea, quella a cui ci ispiriamo, definisce come una delle azioni portanti, l'azione numero 7, la diffusione e la piena interoperabilità del sistema di pagamento elettronico, e quindi diciamo diventa un faro di sviluppo non solo per l'Italia, appunto, che in questo momento è indietro nelle graduatorie, diciamo indietro in questa come indietro sfortunatamente in tante altre, per cui l'importanza del decreto digitale e diciamo anche per evitare di dare informazioni che possono in qualche modo dare il senso sbagliato quella sui pagamenti elettronici non è sicuramente il campo in cui siamo più indietro all'interno dei ranking dell'agenda digitale europea. Sicuramente il problema non è solo un problema tecnologico, perché noi siamo comunque il paese europeo insieme all'Inghilterra con la più alta penetrazione di smartphone, ma è un problema di processo e di regole. Sicuramente il processo è un processo del pagamento, e quindi sicuramente quello che ci aspettiamo dal decreto Digitalia non è soltanto una pressione tecnologica, ma una organizzazione di processi che permetta alle pubbliche amministrazioni, che sono sicuramente uno dei player più importanti, di costruire dei processi che permettono al cittadino di seguire un pagamento dall'inizio, non solo fare una transazione, cosa che si può fare su tanti siti web, ma avere la presa in carico del pagamento, il codice unico di un servizio, una serie di piccoli pezzi di tasselli che mancano, non erano stati messi fino adesso in ordine, e che con Digitalia, come è uscito anche dall'evento di cui prima lei parlava, del nostro Think Tech Locus, possono essere facilmente messi in ordine, e quindi dare una spinta a questo mercato che ci porti subito a ridosso dei migliori paesi europei. Sicuramente, tre sono secondo me le tematiche, non solo come diciamo tecnologiche, su cui andare a ragionare insieme poi alle persone nella seconda parte. Il primo è quello appunto della pressione di una regolamentazione verso una deregulation, che è un po' il problema che lei prima indicava come non dare ai telco operator piuttosto che altri operatori che sono non nati sul mercato dei pagamenti la possibilità di entrare in questo mercato. Allora, purtroppo anche qui la Comunità Europea ci fa da guida, c'è una direttiva della Comunità Europea che è la Payment Service Directive, la famosa PSD, e quindi in qualche modo ha riportato come concetto in Italia, che dà delle chiavi e degli step abbastanza chiari per diventare istituto di moneta elettronica, con una serie di costi e una serie di processi che bisogna fare. In questa prima fase, in cui il mercato non è ancora partito, che cosa succede? Che naturalmente nessuno dei player vuole fare questi step abbastanza chiari per entrare nel mercato, ed è più interessato ad avere una parziale deregulation su alcuni servizi. Quello che sarà fondamentale, che secondo me è fondamentale a prescindere dalla decisione in un senso o nell'altro, è che quello che è uscito dalla discussione del nostro evento, sicuramente uscirà anche su Digitalia, è una chiarificazione delle norme, sia in un senso che nell'altro. Sarà chiaro quando bisognerà essere email e quali servizi fare una basti pensare alcuni servizi della pubblica amministrazione, vanno molto di moda i piccoli pagamenti, i biglietti del trasporto pubblico locale, una serie di servizi che potrebbe essere una prima fase deregolamentati per poi essere regolamentati in una fase successiva. Ecco, ma al di là di questo capitolo che è tecnico, quindi rischiamo di perdere gli ascoltatori, perché riguarda gli obblighi, ripeto, regolatori imposti ai soggetti che gestiscono servizi di pagamenti rispetto alle modalità di capitale obbligatorio che devono avere e così via, cioè bisognerebbe tentare di far gestire questi servizi agli operatori telefonici senza obbligarli, per così dire, alla pesante normativa bancaria. Ma al di là di questo, ci sono alcuni aspetti da chiarire. Prima che le faccia la domanda delle 100 pistole, ma lei davvero pensa che bisogna abbassare a 50 euro questa soglia di pagamenti tracciabili? Cioè, cosa si può concretamente fare, per la prima domanda che viene immediatamente, lo vedo già dagli sms agli ascoltatori, che ho capito, ma per quei milioni di italiani che non hanno manco un conto e che non possono pagare le commesse, gli oneri di servizio che aumenterebbero per gestire i pagamenti rispetto al contante, che cosa facciamo? Nel mentre tutti siamo d'accordo sul fatto che un sistema di pagamenti in remoto sia più produttivo per tutti, cosa diciamo a quei milioni di italiani anziani che a quel punto si vedono semplicemente appesantire ulteriormente gli obblighi di una vita già grama? E che si può fare da questo punto di vista, Carlo Maria Medaglia? Allora, diciamo, quello che secondo me è l'azione da perseguire e che si sta perseguendo in vari ambiti all'interno di questi decreti è accompagnare naturalmente dal punto di vista del mercato il progetto di aumento dei pagamenti elettronici, non tanto con una spinta diciamo coercitiva come sembra a diminuire la soglia del pagamento, anche se anche qui sulla soglia poi farò una che poi sono che ci stanno gente, due sono secondo me le cose da fare. Uno è ragionare come fanno in tanti paesi sull'incentivo alla diffusione dei conti di pagamento, cioè conti di pagamento che sono conti diciamo semplificati con costo tendente allo zero e che permetterebbero da una parte di poter portare avanti i vantaggi dei pagamenti elettronici a livello di trasparenza e tracciabilità e dall'altra diciamo essendo pensati per ridurre i costi di gestione, diciamo essendo per appunto specifiche categorie di utenza, basti pensare come dicevi tu prima ai pensionati, in qualche modo avvicinare categorie ai conti con costo e in qualche modo cercare di diminuire per loro il peso dell'entrata nel circolo dei pagamenti. Dall'altro, come si sta facendo a Baglioelli e come si è discusso anche all'interno del nostro evento, come tutti i mercati, se ci sono una serie di regole che faranno sì che il mercato triplica o quadruplica, addirittura decuplica i volumi di questa transazione elettronica, ragionare su delle commissioni bancarie a carico degli esercenti, in modo che diciamo l'allargamento del mercato non diventi poi un aumento diciamo dei ricavi per alcune categorie o dei profitti in modo esponenziale, diventi invece una tassa da pagare per le categorie che poi devono usare i sistemi di pagamento elettronico. Ecco. Dal punto di vista delle soglie, sì. Questo, con questo chiudo e poi diciamo discutiamo, secondo me l'idea della discussione è un'altra, cioè far sì che tutti gli esercenti siano in grado di recepire pagamenti elettronici sopra una certa soglia, quindi il fatto di poter dare un servizio in più ai cittadini che sempre più come negli altri paesi si troveranno a pagare con sistemi di pagamento elettronico, cioè diciamo, la spinta a quella che da sempre è stata definita da quando io sono tornato in Italia alcuni anni fa, la battaglia al contante che comunque ha dei costi per tutto il sistema produttivo al di là della fantomatica idea della tassa sul contante di cui dicevi prima, ovviamente i costi legati alla gestione del contante, in qualche modo una riduzione di questi costi può essere vista all'interno del sistema come un possibile budget per andare a ridurre alcune cose come le commissioni interbancarie, sicuramente senza una riduzione delle commissioni, senza la diffusione dei conti di pagamento di base, una spinta alla costrizione all'utilizzo dei pagamenti elettronici diventa, come pensano molti utenti e anche io che sono un tecnologo per cui farei di tutto per pagare solo con gli sistemi di pagamento elettronici, diventa però per tutti semplicemente un piccolo tassello in più di tasse da pagare. Allora avrete capito perché ho scelto Carlo Maria Medaglia. In altre parole, noi, perché io condivido l'impostazione, non pensiamo a soglie coercitive, pensiamo che ci sia un vantaggio complessivo, perché gli oneri del troppo contante che usiamo per pagare in Italia significa oneri di maggior insicurezza, abbiamo il maggior numero di rapine alle banche, tutto questo e costo del denaro aggiuntivo ovviamente e insicurezza nel denaro aggiuntivo, quindi questo costo aggiuntivo da troppo contante è un montante da reinvestire invece per aumentare gli incentivi al pagamento elettronico, che significa appunto conti di pagamento a zero oneri per chi li ha, una campagna straordinaria per pensionati e meno abbienti, esattamente per questo tipo di conti, per indurre i pagamenti elettronici, abbattere le commissioni per gli esercenti di tipo interbancario, finché noi sentiremo dei commercianti che dicono no, guardi quella carta, classicamente che ne so, la Diners, cioè, no, non la uso perché mi chiedono la commissione troppo alta e in effetti ti dicono la percentuale, è troppo alta. E anche qui, quindi, bisogna abbattere quegli incentivi attraverso questa soglia di incentivi, non attraverso la soglia obbligatoria dei 50 euro, mettere tutti in condizione di essere invogliati, di accettare pagamenti in elettronico, di fare pagamenti in elettronico. Questa è l'impostazione attraverso la quale rimediare a un gap, altrimenti si cade nella grida manzoniana antifisco. Eccoci tornati, stiamo parlando dell'abbassare la soglia dei pagamenti oltre la quale renderli obbligatori come elettronici. Abbiamo tentato di spiegarvi il ritardo che abbiamo in questo e i costi per il paese, per noi tutti, rispetto agli altri paesi europei. Non abbiamo accordi di sistema tra le società telefoniche e le banche, malgrado in questo abbiamo il maggior percentuale sia di penetrazione dei cellulari nelle mani degli italiani, sia il maggior numero di smartphone rispetto ai basic phones precedenti, e quindi abbiamo dei device, degli strumenti in mano che ci consentono e ci dovrebbero consentire, agevolare, incentivare a sistemi di pagamento sia remoto che di prossimità. Eppure su questo siamo indietro, questo ha dei costi, però ci siamo sforzati anche di spiegarvi come nel fare dei passi avanti ci dobbiamo obbligatoriamente preoccupare sia del milione di italiani che non ha né conti bancari né conti postali, e per il cui magro bilancio quindi di vita queste soglie di pagamento sarebbero un aggravamento delle difficili condizioni in cui la crisi e la politica ladra dello Stato fiscale, perdonate se alzo la voce apposta per svegliarvi, li ha messi. E poi anche gli oneri per i commercianti, perché per gli esercenti le commissioni interbancarie rappresentano una fetta che incide ulteriormente in un margine sempre più magro, visto gli andamenti dei consumi in questo paese. La crisi più grave da questo punto di vista del secondo dopoguerra, Monti ha ammesso che le misure del governo l'hanno aggravata, però dice che poi ci sarà il rilancio su questo. Una banalità da economista, dirvi che c'è il segno più l'anno prossimo, se quest'anno cadiamo dal -2,7 -2,8 è una menzogna tecnicamente, perché gli effetti inerziali di trascinamento di una perdita di PIL così grave sul mercato domestico e non per domanda internazionale rende impossibile che da un trimestre all'altro si possa passare da un quasi -3 a un più. Questo ve lo dico perché poi tra qualche trimestre ricordiate che a quel punto chi vi aveva detto che c'è il segno più da gennaio forse tentava di spacciarvi ottimismo elettorale, anche se non si candida alle elezioni. Adesso iniziamo a sentire voi come la pensate su questo argomento delle soglie di pagamento. Cominciamo con Jacopo da Milano. Prego Jacopo. Sì, buongiorno, dottor Danilo, la seguo sempre. Io sono sul pagamento elettronico, sono da una parte d'accordo e dall'altra non sono d'accordo, nel senso che mi trovo sia dalla parte del consumatore e da un certo punto di vista lo trovo anche una comodità, poter andare in giro senza il contante, senza con le carte. Dalla parte invece lavorando io per un gruppo grosso della ristorazione dove pagamenti in nero sono ovviamente impossibili da fare, trovandomi a prendere un pagamento per esempio di 5 euro con una carta, come dicevate voi prima, con le commissioni allo stato attuale diventa un danno non da poco per l'azienda. Quindi credo che il fatto di mettere il limite di 50 euro sia una soluzione al momento un po' drastica. Del resto trovo anche che sia una soluzione obbligatoria da un certo punto di vista, perché mettendomi dalla parte del consumatore, io vado ad acquistare un prodotto, parliamo di qualunque cosa, una porta, e il prezzo, pagandolo con la carta, è 600 euro, mettiamo. Il commerciante mi dice, guardi, se non la paga con la carta io le posso fare 400 euro, il consumatore si trova a poter spendere di meno e cosa fa? Non può andare a pensare, oddio, sto commettendo qualcosa che non va. Però capisci, Jacopo, che da questo punto di vista quindi dire che è obbligatorio è un po' problematico, nel senso che no, io penso che se passasse una misura come quella che è messa sui giornali e poi è sparita, ci sarebbe questa volta un'insurrezione vera. 50 euro, ma stiamo scherzando. Ecco, questa è la mia opinione netta. Vi dirò che quel giorno mi metterei a urlare, questo non c'è dubbio, perché a quel punto la costerei una limitazione gravissima alla libertà personale. Con conseguenza, se diventasse obbligatoria per decreto legge, come è stato fatto nel Salva Italia, immediata nella vita dei cittadini, senza che vi fosse a quel punto, senza che vi sarebbe la possibilità, perdonatemi, di introdurre misure che abbattano il costo delle transazioni di quei pagamenti per gli italiani che stanno male, che non hanno un conto, che abbattano il costo di quella transazione per gli esercenti commercianti, e quindi sarebbe un'immediata espropriazione, l'ennesima, di questo Stato che persegue la virtù e lo fa in una modalità con cui il ladro viene di notte negli appartamenti. Quindi attenzione, io su questo penso che bisogna avere una reattività elevatissima nel caso, pur avendo noi oggi spiegato come equalmente è una materia, è un capitolo sul quale bisogna mettersi in condizione di fare passi avanti. Ma i passi avanti si fanno con gli incentivi, si fanno con la carota e non con il bastone, che per il momento configurerebbe solo impropri guadagni di chi a quel punto gestisse questi sistemi di pagamento. Come la pensa invece Marco dalla provincia di Monza e Brianza? Pronto? Pronto Marco, ti dica. Buongiorno, allora io quando c'è stata l'altra volta che volevano fare i 100 euro ho cercato di fare un mese pagando con le carte di credito la mia aziendale, io sono un artigiano, e la mia personale, non ci sono riuscito. Allora, esercizi dove non va il POS, la linea interrotta, ma per così poco, e queste le motivazioni. Ma la cosa più folle, sono andato in posta per fare due raccomandate, non mi hanno accettato le carte di credito. Esatto. Perché i servizi postali non possono essere pagati con la carta di credito. Allora io ho detto, ma se io vengo a fare, qualche mese prima avevo fatto un versamento di bollettino di conto corrente, mi avete preso tutto col bollettino, quindi la cifra più il servizio postale. Allora il servizio postale può essere pagato con la carta di credito. No, non stia qui a fare discussioni, qui su e giù, dentro e fuori, non mi hanno accettato, accettano solo la loro. Questo è delirante. Naturalmente, ripeto, laddove non ci siano accordi di servizio di standard condiviso come in Francia, in Gran Bretagna, in Germania e in Austria, è ovvio che ciascuno tende a fare il monopolista della propria carta, del proprio sistema. Ma è lo Stato che mi chiede questo. Esatto, infatti hai perfettamente ragione. Allora, vi sottolineo poi tra l'altro che mentre parecchi operatori di trasporto pubblico locale, parecchi gestori italiani di servizi di teleticketing per gli eventi e per i concerti e parecchi sistemi di mobilità nelle grandi città, per esempio l'area C a Milano e così via, hanno e gestori di parcheggi anche, hanno sperimentato modalità di pagamento elettronico a distanza o di prossimità, classicamente mettendosi d'accordo con un operatore telefonico e una banca. Anche qui non c'è un sistema nazionale di riferimento, ci dovrebbe essere, visto che in tutte le grandi città i sistemi remoti di pagamento dal trasporto pubblico locale ai diversi servizi offerti su domanda guadagnerebbero da avere uno standard operativo comune e una modalità comune di gestione. Capite che si abbatterebbero per tutti i costi di transazione. Però mentre tutti questi lo fanno, incredibilmente invece la grande distribuzione italiana, che secondo me dovrebbe essere molto interessata a questo tipo di accordi e di sistemi di pagamento, è praticamente la più arretrata in termini comparati in Europa. C'è Carrefour, i francesi di Carrefour hanno un sistema di pagamento remoto gestito dalla propria banca che si chiama Carrefour Bank, hanno una divisione bancaria anche all'interno della loro organizzazione, però per il resto siamo i più indietro in Europa. Allora sentiamo ancora un ascoltatore, prima del resto degli ascoltatori, quindi buoni, perché poi dopo le strade veniamo anche da voi. Sentiamo l'opinione di Massimo Zanon. Massimo Zanon è il presidente di Confcommercio Veneto e ci sembra sacrosanto chiedere a chi rappresenta gli esercenti e i commercianti come reagirebbero loro se invece inopinatamente, come abbiamo detto, speriamo di no perché io sarei il primo a urlare, ci svegliassimo per l'ennesima volta con un decreto che abbassa a 100 euro, 50 euro l'obbligo invece di pagamento elettronico. Come reagireste, Zanon? Buongiorno innanzitutto. Buongiorno a voi e grazie per l'occasione per far chiarezza su quella che è una visione, credo, prima di tutto da cittadino indignato che continua a immaginare che questo paese non abbia più diritti, abbia solamente dei doveri. È assurdo che si possa pensare che dopo aver fatto la scelta dei 1000 euro, oggi uno deve essere obbligato a fare ulteriormente tutte le sue transazioni che superano anche i 50 euro con la carta di credito. Innanzitutto i motivi possono essere 1000, io da indignato gliene do 3. Il primo, la persona che non ha mai avuto per sua scelta libera la carta di credito, al di là del costo non deve essere obbligata a usarla se non la vuole. Seconda cosa, i controlli. Ogni azienda che si trova ad avere non 10 o 20 o 30 transazioni, ma ne ha a quel punto lì un disastro, e pensiamo alla grande distribuzione povera, non quella delle firme, ma quella che fa l'alimentare tutti i giorni, si trova ad avere un ulteriore costo che è anche il controllo. E allora sono tasse su tasse che vanno poi ad essere ricaricate sul cliente finale, e non è questo che si deve continuare a fare, ma bisogna far pagare meno la merce. La terza cosa, beh, non è assolutamente vero, io prima ho sentito alcuni interventi anche di esperti fatti con lei, non è assolutamente vero che tutto il settore possa essere oggi dell'impresa arretrato sulle carte di credito. Ci sono alcuni settori dove su 10 operazioni ne fai 9 con carte di credito, quindi è solamente anche un problema di quanta massa di denaro uno deve avere uscendo da casa, perché se uno sta lì a 4 giorni per turismo o per lavori, di sicuro uno solo carta di credito. Quindi il fatto di 50 euro diventa un aumento di costi, di burocrazia, di controlli, e soprattutto non vogliamo mica pensare che risolviamo il problema dell'evasione facendo quel tipo di scelta lì, perché allora prendiamo i cittadini, ma soprattutto gli imprenditori, qualche volta per farli belli diciamo sono imprenditori, in realtà ci considerano tutti dei ladri di polli. No, è un fatto che da un punto di vista umano e anche etico, grida vendetta, non lo potremo mai accettare. Ecco, io devo dire che prendo l'impegno con Massimo Zanon, se quel giorno arriva e ce lo fanno per decreto una soglia di così tipo di questo basso, credo che davvero bisogna andare nelle piazze, civilmente, legalitariamente, non sfasciare nulla, non ledere alcun altro diritto, ma urlare contro questa malintesa concezione virtuistica di uno Stato che prende per sé, pretende per sé. A quel punto genererebbe redditi per altri, espropriando margini di libertà crescenti per chi addita come violatori della legge, quando è lui il primo a violarlo, lo Stato, ladro e stupido per quello che mi riguarda. Torniamo rapidissimamente per questa fine che mi vedrà per mitragliare sempre più rapidamente, perché ci abbiamo sempre meno minuti, perché promo. Io sono contrario agli autopromo, guardate un po', e questa volta lei un principio, perché chi conduce non dovrebbe mai dirlo, però minuti in meno, quindi solo ascoltatori. Cominciamo con Marta da Verona. Come la pensa Marta sulla soglia obbligatoria, magari a 50-100 euro per decreto, dei pagamenti su elettronici? È favorevole? Buongiorno, dunque io ho 74 anni, sono pensionata dalla scuola, ho subito il fatto di dover mettere in banca, anche se avevo già il conto, la famosa pensione che superava di un po' il 1000 euro, però adesso non sopporto l'idea che si debba andare a pagare per forza oltre una certa quota col bancomat. Le spiego perché. Io sono andata per pagare il bollo dell'auto, allora una tabaccheria vuole 1 euro in più, un'altra 1,80 euro, l'ACI 1,50 euro. Se vado con i contanti, niente. Allora non mi pare giusto questo. La considero una dittatura economica, non è una scelta del cittadino. Il cittadino deve poter scegliere come pagare, ma senza oneri aggiuntivi. Ieri al supermercato ho pagato 5 euro di conto e me l'ho preso col banco, ma senza dover far aggiungere altro denaro. Allora, se si deve pagare in un certo modo, che tutti siano allineati sullo stesso tipo di tassazione su ciò che paghi. Allora, ma Marta pone un problema, che è quello della neutralità dei costi rispetto alla modalità di pagamento, contante o elettronico che sia. Questo è un tema fondamentale, perché oggi non abbiamo avuto tempo di inoltrarci nelle questioni tecnologiche, però per esempio si dovrebbero abilitare a quel punto gli smartphone a usare carte NFC, a usare il credito telefonico diretto. Si potrebbe addirittura pensare di abolire il sistema delle carte di credito, che nasce in un mondo dove l'interoperabilità digitale non c'era, quindi c'erano dei costi, degli oneri da garantire per la sicurezza dei pagamenti a distanza con le carte. È un tema molto complesso, ma è un tema assolutamente fondato, secondo me ha ragione Marta nel porcelo. Roberto da Milano, prego Roberto. Sì, buongiorno, ho passato un buon. Una sirena che spero non sia per lei, ma comunque ci dica. No, esatto. No, io sono contrario, ma anche per un semplice motivo che nessuno ha sottolineato. L'uso della carta di credito o dei bancomat obbligatorio, sì, ti porta a spendere di più e lui non ti rende conto di quanto spendi perché non hai in mano materialmente il denaro. Cioè, le dice, insomma, se uno non tocca il fruscio, esatto, del biglietto che va via dalla tasca, tende a essere più leggero. Questa è una componente behaviorista, si direbbe. L'economia comportamentale ci induce a comportamenti diversi rispetto ai supporti concreti che abbiamo o non abbiamo in mano. Le dirò che per certi versi è vero, per altri no, nel medio-lungo periodo, però all'inizio un po' è vero, si tende a capire meno che si spende. Rossano d'Arezzo, rapido. Sì, buonasera, buongiorno, salve. Sì. Io volevo fare questo intervento relativamente al fatto, si parlava di costi per gli anziani. Sì. Innanzitutto io parlo soprattutto di sicurezza, nel senso che più che costi vedo dei grandi vantaggi. Il primo è il fatto che un anziano, le faccio esempio, invece di avere 500 euro nel portafoglio e soggetto a una rapina, ha sicuramente una cassa e poi anche un PIN, quindi risulterebbe anche più difficile, a meno che non gli puntino una pistola. C'è questo aspetto qua. Poi c'è un altro aspetto che nessuno ha calcolato, quello culturale. Cioè noi stiamo vivendo un sistema di passaggio di nuovo analfabetismo, che è quello informatico. Già rispetto all'Europa siamo molto indietro. Se poi creiamo tutti i sistemi che impediscono un'evoluzione nelle capacità, appunto, anche, quindi lei metterebbe anche l'input che per l'alfabetizzazione tecnologica e anche un po' finanziaria. Bene, abbiamo visto, abbiamo fatto una puntata senza ucciderci pro o contro. Io sono contro all'obbligatorietà, ma vi ho spiegato perché bisogna fare questo passo agli incentivi, ricordando però che i politici sono i nostri dipendenti, i padroni siamo noi, ricordatevelo. Invece è il contrario in questo paese. A domani.